Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca e oltre ad essere Master Reiki all'interno dell'associazione culturale Energicamente, con sede a Firenze in via L'Europa al numero 95 e a Roma in via Valdossola numero 86, mi occupo anche di riflessologia plantare. Abbiamo già dato alcuni cenni sulla riflessologia plantare, oggi vediamo di spiegarne essenzialmente il contenuto e il funzionamento. Abbiamo visto che si chiama riflessologia una disciplina che affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese e che consiste nella stimolazione mirata di alcuni punti del corpo attraversati da quelli che, per l'appunto in Cina, vengono definiti meridiani energetici. Le riflessologie sono più di una, la più nota e forse anche la più efficace è quella del piede, parte del corpo ricchissima di terminazioni nervose che ben si prestano a essere stimolate e massaggiate. A questa si aggiungono la riflessologia della mano e quella facciale. Come funziona la riflessologia? Nella riflessologia plantare la figura umana è paragonata a quella dell'albero. Le radici sono costituite dai piedi, il tronco è la colonna vertebrale e le fronde sono rappresentate dal volto, il più vicino alla luce solare. Secondo questa disciplina il piede regge il microcosmo dell'essere umano e per questo deve essere sano e stabile. La riflessologia plantare funziona secondo il principio degli archi riflessi. Per la fisiologia, parlando di riflesso, prende questo nome una risposta motoria o secretoria automatica che non dipende, cioè, dalla volontà dell'individuo. Nella riflessologia questa risposta è indotta dalla trasmissione di uno stimolo che parte da un recettore periferico, presente per esempio sul piede o sulla mano. Giunge ad un organo centrale come cervello o midollo spinale e da qui si dirige ad un organo effettore, un muscolo, una ghiandola o un organo. In pratica, la terapia delle zone riflesse si propone, attraverso la stimolazione e la manipolazione di alcuni punti specifici, di migliorare le funzioni dell'organismo e di influenzarne una evoluzione positiva. Il presupposto, naturalmente, è che ogni organo, oltre ad avere una propria specificità, rifletta in sé l'intero organismo. Piedi, mani e viso e orecchie, poiché sono sedi di una grande quantità di terminazioni nervose, sarebbero anche gli organi più adatti a riflettere, proprio in virtù di queste terminazioni, tutti gli organi del corpo. Sui piedi troveremo dunque tutti i punti riflessi degli organi interni, della colonna vertebrale e delle ossa. I piedi sono organi altamente sensibili. Su ognuno di essi sono infatti presenti ben 7200 terminali nervosi. Sulla pianta si trovano moltissimi meccanorecettori ed esterorecettori sensibili alla pressione. Il padre della riflessologia plantare, nonostante la terapia delle zone riflesse sia vecchia di 5.000 anni e praticata da popolazioni antiche già in Egitto, India, Cina e Perù, viene considerato William Fitzgerald. Infatti, quest'ultimo, medico statunitense, iniziò le sue sperimentazioni nel 1902 quando, nel suo studio da otorinolaringoiatra, aveva scoperto che la pressione di alcune parti del corpo dei pazienti gli consentiva di ottenere analgesie o addirittura anestesie di breve durata. Nel 1917 pubblicò, insieme al collega dentista Bauer, il suo primo libro. Tra i diversi sostenitori delle teorie di Fitzgerald, la terapista fu la prima a organizzare, la terapista Eunice Ingham fu la prima a focalizzarsi sullo studio del piede, essendo una zona molto sensibile e ricca di terminazioni nervose. Pubblicò diversi libri fra il 1938 ed il 1948. La riflessologia, grazie proprio a Eunice Ingham e a coloro che proseguirono i suoi studi, ebbe quindi un notevole sviluppo e soprattutto diffusione anche in Europa. Naturalmente, dopo Fitzgerald e Ingham, gli studi sono fioriti, anche se le mappe su cui si basano tutte le altre sono essenzialmente quelle di Fitzgerald e di Eunice Ingham. Le diverse scuole hanno creato tutte, che sono seguite chiaramente a Fitzgerald e alla Ingham, hanno creato tutte una propria mappa che può differire dalle prime per alcune particolarità. Comunque sono tutti concordi su quella che debba essere la visione generale del piede. Fitzgerald infatti aveva diviso il corpo umano in 10 zone verticali e in 3 orizzontali. Applicando la stessa divisione ai piedi uniti, siamo riusciti a suo tempo, e così proseguiamo adesso, ad individuare i diversi punti riflessi. Gli organi centrali, come colonna e stomaco, si trovano metà su un piede e metà sull'altro, quelli di destra sul piede destro, ad esempio il fegato, e quelli di sinistra, come la milza, sul piede sinistro. Gli organi doppi, ad esempio polmoni o reni, si trovano su entrambi i piedi. Le cinque dita sono tutte relative alla testa e ai suoi organi. Ogni approccio terapico parte dall'osservazione del paziente, della sua postura, dal suo modo di muoversi e di camminare. Ovviamente si osservano i piedi dello stesso, la loro posizione, le loro tensioni, la loro forma e il loro colore e il loro odore. Per esempio, i piedi simmetrici, quelli cioè che assumono un'inclinazione uguale di 45 gradi, sono indice normalmente di rilassatezza, mentre se la testa è leggermente piegata a destra e il piede destro è abdotto, significa che c'è una tensione sul lato destro. Una buona terapia riflessologica è costituita da tre momenti. Il primo è la ricerca dei punti dolenti. Attraverso una risposta più o meno dolorosa da parte del paziente si identificano le parti da trattare. Il secondo è il trattamento di riequilibrio generale, volto al ripristino dell'equilibrio dei vari organi. Il trattamento personalizzato, infine, si focalizza sui punti più dolenti, che riflettono dunque gli organi in maggiore disequilibrio. Generalmente il trattamento dura circa 45 minuti per cicli che vanno dalle 10 alle 12 sedute. I punti riflessi sui piedi sono praticamente identici su un piede e sull'altro. Le variazioni sono minime, i punti relativi a testa, seni, frontali, occhi, orecchie, spalle, polmoni, tiroide, stomaco, duodeno, pancreas, rene, surrene, colon traverso, ginocchio, vescica, ovaio, testicoli, nervo sciatico e duodeno si trovano infatti sulle piante di entrambi i piedi. Per quanto riguarda invece specificatamente il piede sinistro, i punti che si trovano solo su questo sono quelli corrispondenti a fegato, cistifellea, corno ascendente e appendice, mentre invece quelli che si trovano specificatamente sul piede destro sono quelli corrispondenti al colon, intestino, retto e milza. Naturalmente questi punti sono da considerarsi dal punto di vista del terapeuta e quindi di colui che tratta, dell'operatore, per trovarsi invece nella realtà i relativi punti riflessi rispettivamente sul piede destro e sul piede sinistro della persona da trattare. Nel corso della prossima puntata esamineremo in modo più specifico quelli che sono alcuni dei punti più dolenti all'interno dei piedi di un, fra virgolette, normale organismo più o meno sano. Per il momento è tutto e nel ringraziare nuovamente Radio Big World per l'opportunità che ci è stata concessa, vi invito a visitare il sito di Energicamente www.energica-mente.it oppure a visitare la nostra pagina Facebook e a contattare i relativi operatori, fra cui la sottoscritta Francesca, Franco oppure Elisa. Grazie di nuovo e arrivederci alla prossima puntata.